100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Si avvicina l'appuntamento con Brexit, il referendum del 23 giugno a cui sono chiamati i cittadini britannici per decidere se rimanere o no nell'Unione Europea, e i mercati finanziari si fanno sempre più nervosi, mostrando di contemplare molto seriamente l'ipotesi di una vittoria del sì, circostanza che creerebbe probabilmente nuova volatilità sui mercati e forse un precedente per altri paesi. Al momento sono congetture che comunque hanno mandato venerdì scorso in rosso pesante tutte le borse, anche Tokyo stamattina è sotto di 3 punti, ma l'effetto più vistoso dell'incertezza si è visto sul mercato obbligazionario, con la consueta corsa ai beni rifugio, ad esempio sul Bund, il titolo decennale tedesco, il cui rendimento si è azzerato scivolando su un terreno mai visto prima. A gettare benzina sul fuoco anche le attese per i previsti appuntamenti di questa settimana con la Banca Centrale Americana, costretta ancora una volta a rinviare il rialzo dei tassi di interesse, e la Banca Centrale del Giappone, sempre più espansiva. Ma non basta, perché 3 giorni dopo il referendum in Gran Bretagna si terranno anche le elezioni spagnole. È un giugno caldissimo per i mercati finanziari, con uno sguardo anche alla regina delle borse, Wall Street, che ha iniziato il conto alla rovescia verso le presidenziali di novembre. Il petrolio è saldo da qualche giorno sopra i $50 al barile, sia a Londra che a New York, al top da luglio 2015. E ultimo tema da ricordare riguarda sempre il mercato obbligazionario. La settimana scorsa la Banca Centrale Europea ha iniziato a comprare sul mercato anche obbligazioni societarie, sempre nel tentativo di garantire liquidità al mercato e rimettere in moto l'economia. Venendo alle vicende italiane, oggi è in programma un'asta di BTP a 3-7-30 anni per un importo complessivo compreso fra 5 miliardi e mezzo e 7 miliardi. La borsa italiana, complici le consuete vicende bancarie, ha ritoccato i minimi da aprile, nessun effetto naturalmente del primo turno delle amministrative, ma sono partiti gli aumenti di capitale del Banco Popolare e di Veneto Banca, che non è quotata, e Unicredit è a caccia del nuovo amministratore delegato, la cui nomina dovrebbe avvenire nel giro di 2 mesi. Altri titoli in evidenza: Saipem, che ha ottenuto importanti commesse, e poi tutto il settore del risparmio gestito, che continua a macinare un'ottima raccolta. Infine RCS, con la Consob che ha dato il via libera all'offerta della cordata Bonomi, che partirà il 20 giugno. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. L'Europa è sempre in prima fila quando si tratta di condannare gli americani sulla facilità con cui si acquistano pistole e armi d'assalto negli Stati Uniti, e la strage di ieri in Florida ne è l'ennesima conferma. Ma se poi la questione del controllo delle armi da fuoco si sposta in Europa, Bruxelles non sembra affatto così compatta come vorrebbe far credere. Dopo mesi di scontri e polemiche con le lobby dei produttori europei di armi, la Commissione europea è riuscita infatti con fatica a raggiungere un accordo sulla nuova normativa comunitaria in materia di vendita e possesso di armi, fissando limiti più stringenti all'acquisto e alla circolazione di pistole automatiche e fucili d'assalto ad alta capacità. Le nuove regole sono state promosse dalla Francia dopo gli attentati islamici del 13 novembre 2015 a Parigi, quando si scoprì che gran parte dell'arsenale usato dai terroristi era in libera vendita in gran parte d'Europa. Secondo il testo approvato dalla Commissione, in Europa potrebbe presto diventare vietato il possesso di armi semiautomatiche con caricatori ad alta capacità e in generale la vendita di fucili da guerra, mentre sarà creata una sorta di banca dati in cui tutti i paesi europei inseriranno le informazioni sulle armi ad alto potenziale, su chi le acquista e su dove vanno a finire. Persino il cinema d'azione dovrà adeguarsi. Sul set non potranno più essere utilizzate armi di scena modificabili in armi vere. Fin qui buoni propositi. La realtà è però ben diversa, poiché le nuove regole dovranno essere approvate dall'intero Parlamento europeo per diventare efficaci. Gli interessi intorno alle armi sono altissimi e gli stessi promotori della stretta sulle armi ammettono che la vera battaglia si giocherà in Parlamento, dove le lobby contano di più e hanno già preannunciato uno scontro senza esclusione di colpi. Vedremo se almeno sulle armi l'Europa sarà capace di dimostrare all'America chi fa davvero sul serio. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it.